Ecco, ritorniamo ai microfoni della radio, sono le 5:59. Apriamo le finestre. Parzo 5:59, 31 secondi, quindi 30 secondi. Sì, il breakfast si avvicina anche il sorgere del sole, dell'arrivo del giorno. Del giorno sì, dopo? Sì. Quindi già, diciamo, siamo già al giorno, poi. Sì, siamo pronte. Dopo aver trasmesso per ormai la maratona è iniziata a mezzanotte, quindi siamo già a sei ore della maratona, cioè, insomma, inizia a essere sostanzioso come tempo. Questa notte abbiamo detto un sacco di cose simpatiche, molto intelligenti, interessanti. Abbiamo dato degli spunti di riflessione. Mi spiace che non ci ha sentito, che non ci ha ascoltato. Capisco che la notte è fatta anche per dormire, però insomma c'eravamo noi e a me dispiace molto per loro. Quindi ringraziamo tutte quelle che invece ci hanno ascoltato, invece che si sono addormentate e risvegliate con noi. Cioè, niente da fare. No, però certo è un diversivo, perché non scherzo, è stato comunque sempre molto bello, una bella esperienza. E anche speriamo, questa volta, insomma, ci siamo divertite, siamo arrivate, volta abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, siamo stati insieme a altre persone che ci sono venute a trovare, ci hanno portato da mangiare, da bere, tutto questo, no? Sì, eppure sì. Un costruire, stare insieme e sostenere la radio, sostenere questa lunga maratona, trasmissione, trovare un modo di fare la lotta che spesso passa attraverso anche la comunicazione, come dicevamo, le parole, no? Perché poi io parlo anche poco, però. Poco, insomma. E come dicevamo all'inizio, la nostra sarebbe stata una lotta contro il sonno, e ce l'abbiamo fatta, perché noi abbiamo sconfitto il sonno qui, sveglie. Sonno, non te temo, Orfeo, ciao. Orfeo, ti ho detto ciao stanotte. Ho altro da fare per questa notte. Non so se io adesso mi butterò sul letto e morirò per ore ed ore fino a che non arriverò al corteo, però intanto, insomma, abbiamo passato questa lunga nottata insieme. È stato molto bello e, insomma, e siamo arrivati alle 6. Sì. Siamo svegli, ancora un po' di abbiamo musica, abbiamo aperto pure le finestre, assolutamente, sul via dei Volsci. Vediamo che forse qualcosa inizia a muovere il quartiere, forse sì, si sento già qualcuno che inizia a lavorare, qualcuno si sveglia. Anche se oggi è sabato, quindi si sveglieranno tutti con molta più calma. Si svegliano meno persone, con più calma, però c'è anche chi lavora il sabato. Ah, certo, assolutamente. C'è chi si sveglia perché comunque c'è chi magari ancora deve andare a dormire perché ha lavorato. Che c'è. Oppure si è divertito, oppure che ne so, c'è gente che magari oppure è abituata a dormire, che ne so, svegliarsi tutti i giorni presto e quindi certo presto. Tutte abitudini, cose così. E comunque è sempre interessante vedere un quartiere che si sveglia, questo dicevo, sì, no? Questo, cioè la poesia proprio del risveglio, no? Sono matti. La poesia, come sei romano. Così, ecco, fa un freddo della Madonna. Qua, e come poesia? Ci abbiamo fatto entrare una Gianna che ciao. Un po' di poesia, un va. Po' troppo, forse chiudiamo la finestra. Vado avanti e chiudo la finestra. Ciao. Algún día voy a ser vieja y voy a tener pocos años para vivir. Mi piel tendrá más arrugas, mi cabello lleno de canas, pero podré decir que viví. Algún día voy a ser vieja y me faltarán pocos años para vivir. Mis hijos habrán crecido, la casa estará vacía, pero podré decir que viví. Mira cómo pasa el tiempo, mira todo lo que has hecho. Tengo una lista entera de cosas que todavía quiero hacer. Quiero aprovechar, quiero disfrutar la vida entera. Quiero aprovechar, quiero disfrutar la vida entera, hasta el final. Quiero aprovechar, quiero disfrutar la vida entera.

noi siamo ancora qui. E quindi stavamo a pensare chi era nato l'8 marzo, il 9 marzo, è un po' sfigato, no? Un po' sfigato perché non può festeggiare la sera prima. No, però niente, intanto facciamo tutti gli auguri a tutte quelle che sono nate l'8 marzo. Assolutamente, così, buon compleanno, sì, così, per un dire, buon compleanno. Così, una cosa così un po' leggera. Ma sì, e soprattutto sono pesci. Ecco, infatti. I feel like a disco ball. I feel like a disco ball, reflecting what surrounds me. I shine when it's light, feel broken when I fall. Femministe e lesbiche di tutto il mondo, unite ai microfoni. 24 ore non stop, MFLA su Radio Onda Rossa. Sì, è arrivato il giorno. Sì, sì. In questo spazio, diciamo, è tempo che si può. Timeless, priceless. Cioè, ormai, cioè, non sappiamo più che ora è. Ce lo sappiamo perché ce l'abbiamo qua. Lo guardiamo, però. E alle 6 e un quarto, no? Senza tempo, procede senza la maratona. Spazio, 24 ore, non si capisce. Che succede? Bah. Ecco la nostra colazione. Meno male, facciamo pure noi colazione. Ebbene sì, così ci prepariamo. Però, per il sonno. Insomma, comunque volevamo salutare. Buon 8 marzo di lotta. Un caldo a tutte. Abbraccio. Per noi caldo perché andiamo sotto il piumone. Poi ci prendiamo un cappuccino. Un bel a cornettazzo, voi. Una ciambella. Buon fritta. Continuo di maratona. Continuo maratona con tutte un palinsesto veramente ricco. Interverranno un sacco di realtà. Un sacco. Verranno ascoltate un sacco di piazze in tutta Italia, insomma ci saranno insomma un po' di cose da, insomma vi lasciamo al resto della maratona. Grazie a tutte e allora ciao ciao ciao a tutte. De llorar y no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penal. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra, parandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miro ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo... Ci siamo, eh? Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a rotos sin pudores. Las reglas marcadas, hoy ha calzado tacones. Para hacer sonar sus pasos, hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie.